È mezzanotte, come se fosse facile smettere. Dalla mia finestra sento il mondo respirare. Smettere che cosa? E il suono riempie ogni cosa che c'è. Lasciano andare questa emozione, insegni e raccontano. Vorrei vedere quello che stare vuoi. Bene con te, spegni la luce. Come se potessi fare tutto quello che spegni voglio. Spegni la luce, andare, tornare, non fermarmi mai. Adesso che ci sei tu, come se non smetto mai. Questo amore è tutto quello che ho. Spegni la luce. Forse le regole cambiano ogni gioco che c'è. Scendo giù, il tuo amore illumina ogni cosa che c'è. Per trovare un po' di pace, spegni la luce, le insegne raccontano tutto quello che vuoi. È una virtù digitale, è una virtù digitale. E dimmi dov'è la tua libertà, spegni la luce, può essere solo tu. Solo quella che fa male, puoi essere solo tu, quella che dà soltanto qualcosa in più. Dimmi dov'è la tua libertà, come se non smetto mai. È una virtù digitale, il suono, è il suono, è il suono imperfetto. Come se